Skoda Octavia Wagon a metano, solo a settembre, da 18.900 euro. Scoprila anche sabato e domenica in concessionaria o su skoda-auto.it. Skoda, simply clever. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Catalogna, 13 arresti nel governo locale, sale la tensione con Madrid, migliaia di persone in strada. Terremoto in Messico, centinaia di morti, di cui 25 bambini in una scuola, 4 milioni al buio. Le sparano per strada, gravissima in Puglia una quindicenne, si cerca l'ex compagno della madre. Rubava le poste, il giudice dispone il reintegro del dipendente in azienda e il pagamento degli arretrati. Fine legislatura in Sicilia, 29 cambi di casacca in un giorno per evitare di raccogliere firme per le candidature. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sempre il 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali come sempre andiamo anche in diretta video e se volete potete commentare anche là. Iniziamo dunque questa trasmissione parlando di Catalogna e di quello che è successo questa mattina. C'è stato un blitz della polizia spagnola, ci sono stati degli arresti tra funzionari del governo in una fase di tensione che, nella quale conosciamo, della quale vi abbiamo raccontato i dettagli, tensione che deriva naturalmente dal referendum sull'autonomia in arrivo. Dunque partiamo proprio da qua, prima di andare alla cronaca e a quello che sta succedendo sulle strade di Barcellona, e partiamo dalle prime dichiarazioni del presidente catalano Sergio Nava, buongiorno. D'avui fins al dia 1, el dia del referèndum, ens caldrà un'attitud de fermesa i serenò al mateix temps. Le state ascoltando, dichiarazioni di pochissimi minuti fa, dichiarazioni del presidente catalano della Generalitat, Carles Puigdemont, che ha detto andiamo avanti con il referendum del primo di ottobre. Dichiarazioni importanti perché Puigdemont ha detto la Spagna ha superato la linea rossa, siamo stati vittima di un'aggressione coordinata fuori da ogni marco legale, lo Stato spagnolo ha sospeso di fatto l'autonomia catalana, ha denunciato Puigdemont dicendo, aggiungendo, lo Stato spagnolo si è convertito in una vergogna democratica. Ciò che sta vivendo Catalunya non lo ha vissuto nessuno Stato dell'Unione Europea, e poi ha reiterato il primo di ottobre usciremo di casa, porteremo una papeletta, cioè una carta per votare, e la utilizzeremo. Queste le parole del presidente catalano Carles Puigdemont, che arrivano dopo una mattinata di estrema tensione a Barcellona. Su questo so che siamo già in contatto con Mario Magaró dalla Spagna, a cui passerei la linea. Eh sì, andiamo dunque da Mario Magaró. Mario, ci sei? Dove sei? Dove ti trovi? Che aria tira? Vai. Buongiorno da Barcellona, io mi trovo davanti al Ministero di Economia della Catalogna, una delle sedi istituzionali perquisite questa mattina alla Guardia Civile Spagnola, e proprio il numero due del Ministero, Giuseppe Maria Jové, è tra i 13 funzionari del governo catalano detenuti, secondo quanto ha confermato lo stesso governo catalano. Qui in migliaia si sono riversati rispondendo all'appello fatto da Jordi Sánchez, il presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana, la principale associazione indipendentista della Catalogna, appello appunto a scendere in piazza a supporto dell'indipendenza della Catalogna. I manifestanti hanno scandito e continuano a scandire, come potete sentire, slogan a gran voce in favore del referendum del primo ottobre, ribadendo la propria volontà di andare a votare, e contro il premier spagnolo Mariano Rajoy, accusato apertamente di adottare metodi fascisti e propri dell'epoca di Francisco Franco. Nessun incidente fino ad ora si è registrato qui davanti, però la tensione è molta, è palpabile, ed è ricca l'atmosfera che si percepisce, è ricca di sentimento nazionalista che trasuda, sì, da tutti i pori dei manifestanti. Sì. C'è da sottolineare anche che molte persone con cui ho parlato hanno abbandonato, hanno lasciato il proprio posto di lavoro per recarsi qui davanti e manifestare. Io ti ringrazio intanto per questo aggiornamento a Mario Magarò, che abbiamo sentito probabilmente solo in parte, avete sentito voi dalle vostre radio, perché naturalmente c'era di sottofondo il canto delle persone che si trovavano in strada per protestare contro questo blitz della Guardia Civile. Questo è il quadro della Catalogna, appena avremo aggiornamenti ovviamente ve li daremo. Intanto andiamo in Messico per il terremoto di questa notte, le vittime sono centinaia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. 217 è il bilancio delle vittime, di cui 86 nella capitale, numero purtroppo destinato a salire perché sono ancora molti i dispersi. L'agenzia del governo statunitense per il territorio stima che si potrebbe arrivare a 1000. Gli stati più colpiti, Morelos, Puebla, Guerrero e Oaxaca, mentre è salito a 26 il numero delle vittime del crollo della scuola Enrique Rebsamen di Città del Messico, 21 bambini e 5 adulti, ma anche lì molte persone mancano alla. Intanto arriva la notizia che sono stati annullati i mondiali paralimpici del nuoto che si sarebbero dovuti tenere il 30 settembre nella capitale, così riferisce il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli. Ma sentiamo alcune testimonianze che arrivano dalla capitale. La verdad es que se ha sentido muy fuerte, no hemos podido desalojar bien el edificio hasta que no ha parado porque es que casi nos caíamos por la scaleras. Si è sentito fortissimo, dice una donna, non riuscivamo ad uscire dall'edificio mentre la scossa era in corso perché le scale ballavano troppo, si muoveva tutto, è stato eterno, l'evacuazione però ordinata. E mentre si continua a scavare tra le macerie, un imponente blackout ha interessato almeno il 40% del paese, con quasi 4 milioni e 600 mila tra case, negozi e altri edifici rimasti al buio. Intanto la solidarietà del presidente americano Trump, anche il Papa si è detto vicino alla popolazione in un momento così doloroso, e l'unità di crisi della Farnesina fa sapere di essere al lavoro per verifiche su eventuali italiani coinvolti. A te Simone. E grazie Alessandra Schepisi, che tornerà ad aggiornarci più avanti sulla situazione in Messico. Nel frattempo si contano i danni del passaggio dell'uragano Maria. Se l'uragano Irma aveva risparmiato Porto Rico, Maria invece non lo farà. L'impatto è atteso per le prossime ore. Raggiungete i ripari, ha detto il governatore Rosselló. Questa è l'ultima finestra di tempo. Sarà un nuovo incubo per i tanti che sull'isola avevano trovato rifugio dopo che i precedenti uragani avevano spazzato le altre isole caraibiche. Maria ha perso un po' di potenza, ora forza 4, ma non preoccupa meno. Alle sue spalle ha lasciato devastazioni, pioggia e alluvioni. In Guadalupe e Repubblica Dominicana i danni all'agricoltura erano già pesanti per Irma, ricorda Benedetta Frare di Fair Trade Italia per il commercio equo e solidale. Stiamo parlando, per dare un po' di numeri, di una perdita del 60% di produzione di zucchero di canna a Cuba. E in Repubblica Dominicana parliamo di un calo del 30% della produzione di banane. E poi anche il 26% del cacao in meno. Per non parlare dei generi alimentari quotidiani per il sostentamento delle persone. Il passaggio di Maria non può che peggiorare la situazione. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca italiana, una ragazzina di 15 anni è grave, le hanno sparato. Stavo andando a scuola questa mattina verso le 7.30, scendeva le scale per raggiungere l'autobus. Una quindicenne di Ischitella, piccolo paese del Gargano, a circa 60 km da Foggia, quando l'ex compagno della mamma gli si è parato davanti e le ha sparato un colpo di pistola in pieno volto, devastandola. La ragazzina è crollata sull'asfalto, mentre l'uomo, un 37enne che pare già nei mesi scorsi avesse dato segni di squilibrio mentale, simulando anche un tentativo di suicidio, è fuggito a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce. Una vendetta trasversale, dunque, la prima ipotesi alla base di questo tentativo di omicidio. Il presunto aggressore per un certo periodo aveva avuto una turbolenta relazione con la mamma della vittima. I militari stanno ricostruendo le dinamiche familiari e personali della ragazzina per stringere il cerchio intorno all'uomo ancora ricercato. Intanto destano preoccupazioni le condizioni della piccola, trasportata in elicottero agli ospedali riuniti di Foggia, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico ed indotta in coma farmacologico. Lucia De Mari, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Foggia. A Roma è la giornata del vertice sulla sicurezza. Andrea Viali, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. A Roma le istituzioni e le forze dell'ordine cercano di correre ai ripari dopo gli ultimi casi di violenza sessuale avvenuti nella capitale. In prefettura si è conclusa la riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza dedicato proprio a questo tema, a questa emergenza. Il prefetto Paola Basilone ha detto di aver chiesto al Viminale più uomini delle forze dell'ordine per controllare la città, ma ha aggiunto che nella capitale le violenze di genere dall'inizio dell'anno sono aumentate del 6%, ma è anche vero che gli arresti per questo tipo di reati sono aumentati invece del 70%. La sindaca Raggi, dal canto suo, ha spiegato che il comune ha già stanziato una prima tranche di 500.000 euro per rafforzare la videosorveglianza e ha aggiunto che si sta lavorando anche per migliorare l'illuminazione nei parchi per renderli più sicuri durante la notte. Come sappiamo, uno degli ultimi violenze sessuali avvenute nella capitale è avvenuta proprio in un parco. E direi che è tutto, Simone, dalla prefettura ti restituisco la linea. Grazie ad Andrea Viali, vedremo che cosa emergerà da questo vertice. Ci occupiamo adesso di politica, l'attenzione resta concentrata sul Movimento 5 Stelle perché insomma è arrivato qualche dettaglio in più sulla votazione per il candidato premier. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, è così una corsa, quella per la guida dei pentastellati nella sfida di primavera per Palazzo Chigi scontata e che difficilmente potrà riservare delle sorprese, ma che domani vedrà il suo passaggio ufficiale, dunque decisivo, come annunciato stamani dal blog di Grillo. Gli attivisti registrati entro la data del 1 gennaio 2017 si esprimeranno via web sulla piattaforma Rousseau per scegliere il candidato premier del Movimento 5 Stelle, che sarà anche capo della forza politica e presenterà il programma elettorale alle prossime elezioni. I risultati del voto saranno depositati presso due notai e resi pubblici solo nella serata della proclamazione del vincitore, ovvero sabato a Rimini durante la Tre Giorni di Italia 5 Stelle. La lista dei candidati che sarà sottoposta alla votazione degli iscritti è definitiva, è una sfida ad otto, ma il nome di peso è quello di Luigi Di Maio. Altro fronte, la legge elettorale. Domani nuovo capitolo con il PD che presenterà una nuova proposta, un Mattarellum con una maggiore quota di proporzionale. I 5 Stelle però già la bocciano e dicono è un testo che ci ostacola. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento. Prima di chiudere parliamo di due argomenti, calcio e musica. Iniziamo dal calcio, iniziamo dal campionato con il nostro Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao, per questo turno infrasettimanale che ha già regalato la prima partita e le prime polemiche naturalmente. Best, ça va sans dire, come direbbero i francesi. C'è stato questa l'Inter bloccata a Bologna, primo pareggio stagionale. In questo momento l'Inter è solo in testa alla classifica, ma è un primato amaro perché Napoli e Juventus possono subito superare, anche se ci sono due cose da considerare. Spesso il turno infrasettimanale forse la magia del calcio regala delle sorprese, e secondo, Juventus e Napoli sono attesa le partite più interessanti di questo turno del mercoledì. Infatti la Juventus riceve la Fiorentina di Pioli, che comincia ad essere qualcosa di serio. Il Napoli invece va in casa della Lazio, e questa è una partitissima perché bisogna smettere di sottovalutare la Lazio, che ha sculacciato il Milan, ce lo ricordiamo, che è quarta in classifica, che è comunque una squadra che ha legittime ambizioni di entrare nella zona Champions League, e quindi il Napoli ha certamente il turno più delicato. Quanto alle altre, si comincia alle 18 oggi pomeriggio con Benevento Roma, e poi il programma serale delle 20:45 prevede Atalanta Crotone, Cagliari Sassuolo, Genoa Chievo, che ha già la faccia e l'aria di una partita salvezza, appunto Juventus Fiorentina Lazio Napoli. Il Milan riceve la SPAL, che aveva giocato molto bene contro l'Inter soltanto pochi giorni fa, quindi doppia gita a San Siro per la squadra di Ferrara. E Udinese Torino e Verona Sampdoria, questo è il cartellone, e domani ne parliamo, insomma. Sì, ne parlerete, immagino. Bene, parliamo anche oggi in chiave di presentazione. Domani, cioè, dal Salone Nautico di Genova, dove tutti i convocati, sì, si trasferisce per un'esterna. Parleremo di questa giornata di campionato. Parlerete di questa giornata di campionato. Ah, per chi volesse invece effetto giorno in diretta lunedì dal Salone Nautico di Genova, se siete in zona e volete venirci a trovare, ci siamo. Spezia in barca a vela, sì. Spezia in barca a vela. Per chiudere, come ho detto, parliamo di calcio e di musica, e veniamo alla musica. Scoccia interrompere gli Stones, però sabato c'è l'unica tappa italiana. Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, buongiorno, come vi state preparando? Buongiorno, ci stiamo preparando benissimo perché stiamo affrontando tutto per questa giornata straordinaria che sarà una festa grandiosa. Perché mi auguro che naturalmente il tempo ci assista in questi casi, è fondamentale tutto sì. questo, però la città sta preparando da molto tempo per un appuntamento che giudico straordinario. È decisamente straordinario, essendo l'unica tappa, essendo il fatto che gli Stones non è che arrivano tutti i giorni e ne arrivano tutti gli anni, quindi è sicuramente una tappa importante. A livello di sicurezza, di organizzazione, che cosa state facendo? Guardi, sono due mesi che stiamo pensando all'organizzazione, quindi per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda il sistema della viabilità, ovviamente la sicurezza oggi è un dato essenziale per le ragioni che sappiamo e che non ripeto, comunque credo che tutto sia stato pensato nei minimi particolari, nei dettagli, almeno io ho partecipato a molte riunioni in tal senso e devo dire che c'è stata una preparazione molto molto molto accurata, molto attenta e ci sono i presupposti perché sia davvero una bellissima festa, una sì. festa per tutti noi. Quanti uomini saranno schierati alle forze dell'ordine? Perché lei lo saprà, perché in prefettura nelle riunioni ci sarà stato, no? Certamente, posso dire che sono molti a tutti i livelli, ci sono delle zone di prefiltraggio, ci sono delle aree, poi tutta la zona viene isolata ovviamente perché non si possono verificare alcuni fatti specifici, quindi c'è stata una grande attenzione, abbiamo preparato tra l'altro pronto il soccorso, affrontato tutto il sistema, tra l'altro anche sanitario ovviamente, per qualunque tipo di evenienza, che chiaramente avere certo, ovviamente. Comporta di dover pensare a molto, però è stato lei ci va, no? Sì, naturalmente. Come si fa? Lei pensi che... Ma se hai comprato il biglietto, sindaco, gliel'hanno dato, no? No, il sindaco fa la fila come tutti. Qui a Lucca dall'altra parte del vetro, mi guardano e dicono: no, non ci crediamo. Laura Faggini e Roberta Frisani. Ci manda un WhatsApp con la sua foto in fila là. D'accordo, comunque il sindaco fa la fila come tutti su tutte le varie questioni, perché è giusto che sia così, si deve far così. Io credo molto questa sia la situazione che oggi dobbiamo seguire. Grazie Alessandro Tambellini, sindaco di Lucca, per essere stato con noi. In bocca al lupo naturalmente per il concerto di sabato e buon divertimento. Come ovvio, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia da una sentenza che, per come la vediamo noi, ha dell'incredibile. Ossia, un dipendente delle Poste, pescato a rubare e anche intercettato, aveva sottratto 15.000 euro. Va sotto processo, l'azienda decide di essere massimamente garantista e aspettare la conclusione del processo e quindi non lo licenzia. Lo licenzia solo quando arriva la condanna. Ebbene, per questo motivo, per non averlo licenziato subito, l'azienda è stata condannata dal giudice del lavoro, quindi in sede civile, a reintegrarlo e pagargli gli arretrati, nonostante appunto sia colpevole di un furto da 15.000 euro. A tra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia e sempre i numeri per contattarci: 349-238-6666 per sms e whatsapp e la nostra pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta. Nella prima parte della trasmissione lo avete sentito, abbiamo parlato di quello che è successo in Catalogna con gli arresti nel governo locale, del terremoto in Messico, sul quale torneremo tra un attimo per un aggiornamento, di una brutta vicenda di cronaca dalla Puglia, dove una ragazzina di 15 anni hanno sparato a una ragazzina di 15 anni, e poi abbiamo parlato anche di calcio e, come avete sentito, in chiusura di musica. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia e iniziamo dalla Sicilia. Ora, la notizia che abbiamo appreso dai quotidiani, soprattutto dai quotidiani locali, nella giornata di oggi è questa, che nella in una sola giornata nell'Assemblea regionale siciliana, che è il Parlamento siciliano per così dire, ci sono stati ben 29 cambi di casacca su 90 in una sola giornata. C'è una motivazione specifica per questo, non è come dire la folgorazione, il cambio di alleanze, il cambio di idee politiche, ma la motivazione è che in questo modo si riesce a far sì che non si debbano raccogliere le firme per le candidature, che è la cosa normale che uno fa, cioè quando si deve candidare ad un'elezione va in giro, fa la raccolta firme e se non raggiunge il numero necessario di firme semplicemente non si candida. Giovanni Ardizzone è presidente dell'Assemblea regionale siciliana, buongiorno Ardizzone, buongiorno. Un po' quello che sarebbe il presidente della Camera per intenderci, per capirci, però appunto nella Sicilia. Come giudica questa pratica, Ardizzone? Ma indipendentemente dalla vicenda di ieri, che magari avrà ragioni tecniche, purtroppo il problema del cambio di casacca di Volta Gabbana è stato il motivo dominante dall'inizio della legislatura. C'è un fenomeno di trasformismo che ha condizionato l'attività dell'Assemblea e anche del governo regionale. Noi abbiamo visto vincente il centro-sinistra nel 2012. Però mi scusi, quelli che sono stati eletti a destra sono passati col centro-sinistra. Adesso vedono vincente il centro-destra e tutti passano da sinistra, passano a destra. Ardizzone, sì. Allora, questa è chiaro, è una questione politica, è un problema politico che si pone a molti livelli, a livello locale e a livello nazionale. Io sinceramente trovo abbastanza assurdo che venga messa in piedi un'operazione di questo genere per una ragione di quel tipo. Ripeto, le regole della democrazia sono precise, se non hai le firme non ti puoi candidare, e che tu cambi casacca apposta per poter essere ricandidato, per non aver bisogno di raccogliere le firme, è assurdo, è anche una presa in giro degli elettori, se mi consente. Ma guardi, se rimangono all'interno dello stesso ambito, centro-sinistra nel centro-sinistra, centro-destra nel centro-destra, non ci trovo nulla di scandaloso. Il problema è quando cambiano completamente schieramento, perché se il fatto è tecnico, alla fine tutto sommato lo rassegno nel fatto tecnico, non trovo francamente così scandaloso questo, è un problema di contenimento delle procedure burocratiche, come se rimaniamo nello stesso ambito. Ma come contenimento delle procedure burocratiche, mi scusi? Ripeto, il mio ragionamento è sempre quello: se non hai le firme, non hai le firme, non ti candidi, non riesco a capire cosa si possa giustificare di un comportamento di questo genere, Ardizzone. Abbia pazienza, capisco che allora è una mia lettura forse sbagliata. La sua è una lettura che, per carità, ha un certo fondamento. Ieri quando io leggevo il lungo elenco dei cambi di casacca, io stesso non mi raccapezzavo, però una questione è la questione tecnica. I deputati in prestito sono anche nel Parlamento nazionale per la costituzione dei gruppi. Ecco, questo è il punto di base. Se io per avere un gruppo e depositare il simbolo ho la necessità di avere 5 parlamentari regionali, così come avviene alla Camera, io do in prestito il parlamentare. Sembrerà strano, ma tecnicamente è così. L'importante e che rimanga nell'ambito dello stesso schieramento politico. Come do in prestito il parlamentare? Succede alla Camera e al Senato per il mantenimento dei gruppi. Ma cioè, ci sono le figurine, le presto. Allora lei prenda. Siamo in due a sorridere. Appunto, lei prende Ardizzone, io le do, non so, Cascio. No, come funziona una cosa di questo genere? Purtroppo tecnicamente funziona così come funziona il Parlamento nazionale. Identico, per il mantenimento dei gruppi è la procedura identica al Parlamento nazionale. Se è per superare una procedura burocratica, questo ci sta. Ma quando il Volta Gabbana, il trasformismo, le dico però, di più. Mi permette una cosa, però. Qua non ci intendiamo noi due, no, perché lei parla di procedura burocratica per una cosa che è una cosa essenziale della democrazia, cioè non ti puoi presentare alle elezioni se non hai le firme di un certo numero di cittadini che le mettono. Questa è una sua visione. Non ti puoi presentare alle elezioni se non sei in un gruppo parlamentare o se non sei in un partito riconosciuto a livello nazionale o regionale. Questo è uno dei motivi. Se non sei in un gruppo parlamentare o non fai parte di un partito nazionale o regionale, hai la necessità di raccogliere le firme. Per evitare la raccolta delle firme si sono costituiti i gruppi con almeno 5 parlamentari. Vabbè. Per lei non è. No, non no, vabbè, mi lascia perplesso, io. Però. Ma insomma, la perplessità pure io ce l'ho, guardi, Meno male. Grazie mille, grazie Giovanni Erdizzone, presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per darvi l'idea. Abbiamo provato a contattare tra gli altri anche chi? D'Agostino, Nicola D'Agostino, con il quale abbiamo parlato. Ha smentito questa frase che però viene riportata da Repubblica, dal quotidiano La Repubblica. Adesso dice: ho la tripla tessera. A Roma sono del PD, a Palermo di Arcipelago Sicilia e a Catania di Sicilia Futura. Questo vi dà un po' la misura. Parliamo di cose più serie invece, andiamo a fare un aggiornamento sul terremoto in Messico. Alessandra Schepisi, eccoci. Sì Simone, il numero accertato ufficiale diffuso dalle autorità sulle vittime rimane fermo a 217, è destinato purtroppo a salire nelle prossime ore perché sono ancora centinaia dispersi, dunque si continua a cercare, proseguono i soccorsi alle persone rimaste intrappolate nelle macerie, così come mancano all'appello molte persone dopo il crollo della scuola Enrique Rebsamen di Città del Messico. Per ora sono 26 le vittime lì, tra cui 21 bambini, e poi annullati i mondiali paralimpici di nuoto, i ragazzi la delegazione italiana stanno bene, stanno rientrando, ha rassicurato Luca Pancali, presidente del Comitato Paralimpico Italiano. Per ora è tutto. Grazie anche ad Alessandra Schepisi per questo punto sulla situazione in Messico. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati come sempre, e poi tra le altre cose parleremo anche di autonomia, di referendum per l'autonomia, perché oggi è successa una cosa curiosa, perché sullo stesso palco in un comizio a favore del referendum sull'autonomia lombardo si sono trovati Roberto Maroni e Giorgio Gori del Partito Democratico, sindaco di Bergamo, e che tra l'altro vuole correre anche per diventare presidente della Lombardia, perché sono tutti e due a favore. In Lombardia anche i sindaci del Partito Democratico in gran parte hanno detto sì a questo referendum per l'autonomia. Invece la vicenda del postino ve l'avevo annunciata poco fa, dovevamo avere un ospite che in questo momento ci sta sfuggendo, vedremo se riusciremo a pescarlo, se no sicuramente è una vicenda sulla quale torneremo tra poco. Effetto giorno. Catalogna, 13 arresti nel governo locale, sale la tensione con Madrid, migliaia di persone in strada, confermato il referendum. Terremoto in Messico, centinaia di morti, di cui 25 bambini in una scuola, 4 milioni di persone al buio. Le sparano per strada, gravissima in Puglia, una quindicenne si cerca l'ex compagno della madre. È indagato per abuso d'ufficio ed è notizia di pochi istanti fa il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, del Movimento 5 Stelle, in un'inchiesta sulla gestione del servizio rifiuti. Fine legislatura, l'avete sentito, in Sicilia 29 cambi di casacca in un giorno per evitare di raccogliere firme per le candidature. Questo è Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia, ed è il momento della borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo per l'ultima parte della trasmissione. All'ascoltatore che dall'inizio della trasmissione via WhatsApp ci scrive: niente, Radio 24 occulta le notizie che riguardano il sindaco di Milano Beppe Sala, l'abbiamo raccontato, la procura generale di Milano ha chiesto il processo per Sala in qualità di ex amministratore delegato di Expo per l'accusa di falso ideologico e materiale, ma non per quella di turbativa d'asta che è stata stralciata. È una cosa che abbiamo raccontato in tutti i GR di ieri e di questa mattina. Non mi sembra che Radio 24 ignori queste notizie, semplicemente alle 13, a più o meno 24 ore di distanza dal fatto che abbiamo dato questa notizia, ci sembra che non fosse più il caso di riportarla, anche perché appunto è una semplicemente una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura e non è un rinvio a giudizio. E invece molto molto carine le battute degli ascoltatori via WhatsApp in merito a quello che ci diceva il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Vasco Ardizzone raccontandoci di questo scambio di parlamentari: ti presto un parlamentare siciliano, tu me ne dai dai un altro per raggiungere un determinato numero di gruppi per potersi candidare senza le firme. Qualcuno chiede se la UEFA ne sa qualcosa di tutto questo e altri propongono una sorta di scambio stile appunto calciatori. Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, buongiorno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Come sta? Bene, voi? Bene, bene, tutto a posto. Allora, Gori, l'abbiamo chiamata perché oggi siete salite, non so se è già avvenuto, avverrà nel pomeriggio, sullo stesso palco lei e Roberto Maroni per parlare di questo referendum sull'autonomia. Era questa mattina. Come è andata? Ah, bene, bene, poi Maroni ha fatto l'introduzione, è andato via, ma poi c'è stato comunque un dibattito abbastanza interessante. L'ho trovato particolarmente morbido e inclusivo, nel senso che rispetto ai toni, ai contenuti della propaganda sul referendum di queste settimane, che erano tutte sparate sul tema del residuo fiscale, decine di miliardi, statuto speciale per la Lombardia, invece era molto più moderato. Sì. E per parte mia ho... Perché... No, perché lo ricordiamo agli ascoltatori, gran parte dei sindaci del Partito Democratico, poi vi siete mossi un po' in ordine sparso, un ascoltatore ci scrive che i sindaci del Mantovano invece hanno deciso di astenersi al referendum sull'autonomia, un nutrito gruppo di sindaci del Partito Democratico ha deciso di sostenere il referendum sull'autonomia della Regione Lombardia. Sì, abbiamo deciso di votare sì, abbiamo costituito un comitato per la vera autonomia. E la ragione è semplice, che a noi l'autonomia costituzionale, quella prevista dal 2001 e mai realizzata, cioè la possibilità di trasferire alcune competenze e le risorse per gestirle dallo Stato alla Regione, questa cosa ci interessa. Peraltro fu il centrosinistra a scrivere quel passaggio della Costituzione e c'è una lunga tradizione di federalismo costituzionale che ci appartiene. Ovviamente questa posizione, che noi riteniamo positiva per la nostra Regione, positiva per il paese, perché se la Lombardia a parità di risorse cammina più veloce è in grado di dare maggiore contributo al resto del paese, è una cosa molto diversa da come il referendum viene promosso da chi lo ha indetto e sono le cose di cui parlavo prima, cioè la propaganda di queste settimane è volta a descrivere il referendum come una specie di soluzione miracolistica che porterà decine di miliardi di euro alla Lombardia, allo statuto speciale. Vabbè, eccetera, vabbè Gori, però insomma, lei un po' la politica la conosce, sì. No? La propaganda è fatta anche di questo, cioè le campagne elettorali, che siano referendarie o no, insomma, sono fatte anche di questo. No, uno dice che succedono cose mirabolanti, su che cosa i sindaci del centro-sinistra e alcuni importanti sindaci e presidenti di province del PD hanno deciso di fare la campagna. Noi la facciamo su quello che c'è scritto nella scheda, ovvero la possibilità di avviare una trattativa col governo per acquisire maggiori competenze e risorse per gestire. Tutto il resto è invece un po' una presa in giro dei cittadini lombardi e quindi diciamo che noi con la stessa convinzione facciamo anche dell'opera di controinformazione o di informazione veritiera sui contenuti del referendum e sui suoi possibili esiti. Ricordiamo che è un referendum consultivo e che quindi poi servirà il voto del Consiglio regionale, la trattativa col governo e infine un voto a maggioranza assoluta dei due rami del Parlamento, per cui spararla troppo grossa secondo me non ci porta. Sì, ci sono una serie di passaggi istituzionali, per così dire, che sono ovviamente necessari in questo caso. Che effetto le fa trovarsi appunto sullo stesso palco col Presidente della Regione, di una parte politica non solo opposta ma fortemente opposta? Il Presidente Maroni è una persona che conosco, che ho incontrato da sindaco tante volte in questi anni ed è anche una persona molto simpatica. Stamattina abbiamo anche chiacchierato un po', quindi non è la prima volta che ci troviamo sullo stesso palco, però ci troviamo a dire su questo tema delle cose obiettivamente abbastanza diverse, pur facendo entrambe la campagna per sì. Come le sembra che possa finire questo referendum, Gori, al di là delle vostre speranze? Che sensazione ha dal territorio? Sia anche un rischio da parte chi ha indetto un referendum che poteva essere evitato, a mio giudizio. Noi avevamo i sindaci, tutti in questo caso senza eccezioni, i sindaci dei capoluoghi lombardi e tutti i presidenti delle province lombarde avevano sottoscritto una lettera che io personalmente ho portato a Maroni nel dicembre del 2015, con la quale noi volevamo dare forza all'iniziativa della regione, perché appunto senza tanti perdite di tempo, referendum eccetera, si cominciasse subito il percorso indicato dalla Costituzione di trattativa col governo. Purtroppo quella lettera fu messa nel cassetto. Ora io credo che aver scelto la via del referendum possa essere anche rischioso, perché se saranno troppo pochi quelli che andranno a votare, veramente metteremo la pietra sopra qualunque percorso di maggiore autonomia per questa regione. Io avrei scelto la via che invece l'Emilia Romagna sta percorrendo, cioè quella di una raccolta di consenso da parte degli enti locali, delle istituzioni del territorio, delle forze del lavoro intorno ad un pacchetto di proposte, di materie da chiedere al governo di devolvere alla responsabilità regionale. E ho ricordato questa mattina che in realtà quello che l'Emilia Romagna, il Consiglio dell'Emilia Romagna delibererà per l'appunto il 3 di ottobre, il Consiglio regionale della Lombardia l'aveva già deliberato esattamente 10 anni fa, nell'aprile del 2007, il 3 aprile 2007, tra l'altro con un voto all'unanimità, che aveva portato l'allora presidente Formigoni a avviare col governo Prodi esattamente la trattativa che adesso noi vediamo all'orizzonte. E purtroppo, quando nel 2008 il governo Prodi cadde e arrivò Berlusconi con 4 ministri della Lega, tra cui per l'appunto Maroni e Zaia, la Lega si mise di traverso e quella trattativa, anziché andare avanti, cessò. Quindi in realtà noi abbiamo perso 10 anni. 10 anni, lei dice appunto che si poteva far prima, molto semplicemente. Questa è l'opinione di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Grazie per essere stato con noi in questa giornata appunto un po' particolare. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.